Friuli nel mondo. 166esima trasmissione dedicata agli emigrati. Festival della canzone friulana 1967. Vogliamo oggi dedicarvi, cari amici radioascoltatori, un primo gruppo di canzoni friulane che tanto successo hanno riscosso quest'anno a Pradamano in occasione dell'ottavo Festival della Canzone, che ha richiamato nell'incantevole parco della Villa Giacomelli una numerosa folla di appassionati del canto moderno friulano. Con l'orchestra diretta dal maestro Franco Russo, ascolterete nell'ordine il Kur Zovin di Angelo Peloi. È uno slow moderato nell'interpretazione di Vilma De Angelis. Di Bruno Degano, una polca dal titolo Siorgero, cantata da Barbara Lori. Con la voce di Giulia Schell, il ritmo allegro intitolato Gige Me, di Guido Michelutti e Claudio Noliani. La barcarola Sintimi Sintimi, di Maria Gioitti del Monaco e Livia Romanelli d'Andrea, cantata da Barbara Lori. Ed infine degli stessi autori, Vilma De Angelis, che interpreta il valzer moderato, che si intitola Tic Tic Tac. Questa invenzione la vi anch'io. di lusso e i chignive, un gruppo si ciala. Qualche passave, qualche biele fantasine, i cimiave con un tan de birichine. Però noi leve la question dal matrimoni, soli plaseve di ciò desta vedrà. Tra la sorgero fastidi snohulve, che si sbombi la miserie, si giolpin qua candè. Tra la sorgero fastidi snohulve, che si sbombi la miserie, si giolpin qua candè. Far marcia fieri in baguline, golaron e vestit neri, al sisme nave come un pavon di lusso e i tignive un gruppo si ciala. Voi ti ardi la voe che ti ha, ti ami su benché. cal si fermi al vapor o ben si di, ma io sai cal seguo iete come cote stai visi. Se loro noi le strati cori pensi io a tirar Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.